Siamo in compagnia di Saverio Raimondo che presenta. Eccolo! Sono spuntato, hai detto il mio nome, eccomi! Eccolo, presenterà il suo libro Stiamo calmi a Feltrinelli Red a Roma il prossimo 18 aprile. Saverio, stavolta sì, ben trovato. Eccolo, eccoci qua, ben trovati, eccomi qua. Ebbene, 18 aprile, vi aspetto. Se è una bella giornata, facciamo in terrazza. Se piove, facciamo dentro. Il posto è polivalente, comunque sia. Staremo calmi, come suggerisce il titolo del mio libro, e potremo finalmente parlare e soprattutto ridere delle nostre ansie, perché è di questo che tratta il mio libro e quindi di questo tratterà la serata del 18, l'ansia. Senti, che oggetto è questo libro? Allora, è un libro di 133 pagine, quindi non è particolarmente spesso, è un libro abbastanza sottile, ci si ammazzano bene le zanzare in estate, per dire, quelle pum, fa il colpo secco e la zanzara resta appiccicata sulla copertina del libro. Il libro in sé, invece, se poi lo volete leggere, avete questo schiribizzo di leggerlo, è un libro umoristico, come probabilmente non se ne scrivono più in Italia da un po' di tempo, o forse non se ne sono mai scritti, cioè è un libro scritto appositamente per divertire il suo eventuale lettore, ed è però un libro su un tema ben preciso che è l'ansia, che è un tema molto contemporaneo, anche se in realtà per me è un tema che esiste da sempre, già che io sono un ansioso, figlio di madre ansiosa, quindi io ho 34 anni e sono ansioso da 35, quindi insomma improvvisamente ho scoperto che l'ansia va molto di moda, che tutti siamo diventati degli ansiosi, colpa ovviamente dei tempi che viviamo, il lavoro precario, la terza guerra mondiale, la situazione politica perennemente instabile, quindi improvvisamente siamo tutti quanti scoperti particolarmente ansiosi. Allora ho deciso di scrivere questa guida umoristica all'ansia, per chi invece è ansioso da poco e ancora deve imparare a conoscere questo sentimento che io considero positivo. È bene e giusto avere ansia, perché l'ansia vuol dire essere preoccupati, essere attenti, essere vigili, ed è importante, secondo me, specie di questi tempi, essere preoccupati, vigili e attenti. È autonomo dai tuoi spettacoli, è una cosa a sé stante oppure raccoglie anche elementi delle tue esibizioni? L'hai proprio scritto appositamente per essere letto, quindi è tutto materiale nuovo di zecca, fatto e pensato, ripeto, per essere letto. C'è un capitolo che parla della mia paura di volare, che è uno degli argomenti che spesso parlo nei miei spettacoli, ma non è il pezzo che io porto sul palco. Ho scritto un capitolo su un tema che avevo già affrontato live, ma che ho affrontato diversamente, ma spero in maniera altrettanto divertente, anche nel mio libro. Quindi è tutto materiale nuovo di zecca, ripeto, scritto per essere letto. Senti, dal palcoscenico alla pagina scritta, perché questa esigenza? Mi è sempre piaciuta l'idea di scrivere un libro umoristico. Io sono un lettore onnivoro, mi piacciono, credo forse l'unica persona rimasta in Italia a leggere, praticamente sono io quel grande lettore a cui tutti gli scrittori puntano. E quindi sono un lettore onnivoro, quindi a me l'oggetto libro è sempre piaciuto. E da amante della comicità ho sempre amato molto i libri umoristici. Mi sarebbe sempre piaciuto scriverne uno. Finalmente si è creata questa opportunità e che ho deciso appunto di unire alle tante, spero non troppe, cose che facciano. Mi piace fare la televisione, mi piace fare stand-up comedy dal vivo, mi piace scrivere anche libri umoristici. Quindi insomma mi mancava questa freccia nell'arco, l'ho aggiunta. Senti, Saverio, per chi ci ascolta, raccontiamo anche brevemente il tuo percorso artistico. Sì, io appunto, come dicevo prima, ho 34 anni, ma ho cominciato a lavorare nella comicità piuttosto giovane perché ho iniziato come autore comico per Serena Dandini a 18 anni e ho sempre avuto voglia però di fare cose con la mia faccia e questa mia voce che voi tutti sentite che fa sanguinare i vostri timpani e quindi mi sono quasi, insomma, abbastanza giovane anche in questo caso, messo in proprio, tra virgolette. E quindi un po' di TV sperimentale, televisione universitaria, eccetera. Poi mi sono affacciato anche sulla TV generalista, prima Rai 2, poi una, chiamiamola consacrazione, o comunque una maggiore visibilità nel programma di Sabina Guzzanti sulla 7, 1, 2, 3 Stella. Nel frattempo ho iniziato a esibirmi dal vivo come stand-up comedian dal 2009 e nel 2015 ho condotto il Dopo Festival di Sanremo in streaming sul sito della Rai. Sempre dal 2015 ho un mio show su Comedy Central, il canale 124 di Sky, che attualmente è alla quarta stagione, tutti i venerdì alle 23 appunto su Comedy Central, e adesso ci aggiungo anche questo libro, Stiamo calmi, come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia, per Feltrinelli. Senti, Voilà! Meglio di Wikipedia. Esatto. Senti, l'attività sul palcoscenico è molto importante nella tua attività. Decisamente, non potrei farne a meno perché comunque il contatto diretto con il pubblico intanto mi permette di fare una comicità sempre più libera, sempre più intima di quella che ti concede qualunque altro mezzo d'espressione. Poi è chiaro che non solo la gratificazione, ma anche proprio la chimica in qualche modo che si crea nell'ottenere la risata del pubblico lì di fronte a te è ovviamente impareggiabile con il pubblico dal vivo, riesco sempre a costruire un rapporto gratificante per entrambi. E quindi mi piace fare stand-up comedy, mi piace farla nei locali, dove si crea quella intimità, quella promiscuità quasi tra il palco e la platea, e che secondo me favorisce il divertimento per questo genere di comicità così spregiudicata, libera, come appunto è la stand-up comedy. Sempre più artisti ci si impegnano, mi sembra che la stand-up comedy si stia diffondendo anche in Italia. Sì, ormai ha decisamente preso piede, chiaramente una comicità di nicchia, ma è una nicchia assolutamente non trascurabile, non ininfluente. Ormai ci sono diversi stand-up comedian in Italia, da che erano 7-8, adesso saranno almeno una ventina, già solo rimanendo a quelli bravi, ci sono anche quelli scarsi, ma infatti quando ci sono anche degli artisti scarsi su una scena vuol dire che quella scena è vera, è reale, è Ah pulita. sì. Perché quello scarso magari tra un anno sarà diventato bravissimo, quindi è decisamente una realtà ormai, una realtà che magari non arriva a coprire ancora tutto il paese, ripeto, è sicuramente una realtà di nicchia, però è una realtà ed è senz'altro l'unico segno di vita sulla scena comica italiana da ormai diversi anni a questa parte. Ecco, in questo senso, quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Stand-up comedian americani, perché appunto stiamo parlando di una comicità che è decisamente anglosassone, non aveva dei veri e propri riferimenti italiani. E quindi, vabbè, ovviamente il riferimento aureo resta sempre per certi aspetti Woody Allen, ma insomma tutti i grandi classici, da Bill Hicks a George Carlin o più recentemente a Louis C.K., sono stati ovviamente sono stati e sono una fonte di ispirazione costante. Chris Rock, David LaChapelle, eccetera. Ma anche Sarah Silverman o Amy Schumer, per citare anche stand-up comedian bravissime. E poi, beh, televisivamente parlando, anche gli altri grandi comici americani come David Letterman, Stephen Colbert, John Oliver, mi hanno sempre molto influenzato. Comunque sono figure a cui mi rifaccio nel cercare di perfezionarmi e migliorarmi sul lavoro. Saverio, tornando al libro, parlavi di una rivalutazione dell'ansia, ma sembra in contraddizione col titolo. Calmi e proprio hai l'ansia, perfetto, stai calmo, è normale che tu abbia l'ansia, cioè siamo calmi è un invito ad accettare l'ansia, non avere l'ansia dell'ansia, ecco l'unica ansia sbagliata è quella che si può avere nei confronti dell'ansia. L'ansia è il nostro istinto di sopravvivenza, è una sorta di allarme più o meno sempre acceso che abbiamo, che però ci rende, ripeto, vigili e attenti, siccome effettivamente di cose storte nel mondo ce ne sono parecchie, è meglio essere vigili e attenti che non esserlo. Quindi stiamo calmi, abbiamo l'ansia, va bene così, ascoltiamolo ogni tanto, vorrà dire che ci alzeremo un po' più di volte la notte per controllare che il gas sia chiuso, ma l'importante è che il gas sia chiuso. L'ansia nel libro, alla quale è dedicato proprio il libro, e invece sul palcoscenico, quali sono i tuoi obiettivi? Guarda, molto fisiologicamente l'obiettivo è sempre quello della risata. Ovviamente attraverso la risata si spera sempre di innestare nel pubblico un dubbio, la volontà in qualche modo di non essere mai dogmatici o retorici su nessun tipo di tema. Dopodiché, ovviamente, non ho assolutamente l'arroganza di voler manipolare elementi delle persone o distillare opinioni personali all'interno delle persone. L'obiettivo resta un obiettivo, ripeto, fisiologico, che è quello di divertire il pubblico. Secondo me già una bella risata, se costruita bene, eccetera, può essere un buono stimolante per i nostri cervelli e in generale un pizzico di sale nelle nostre vite spesso noiosette. Sui temi più disparati, immagino. Su qualunque tema, per quanto mi riguarda, qualunque tema può confluire all'interno di uno spettacolo comico, dal tema più futile a quello più scabroso, assolutamente. Anzi, spesso il divertente sta proprio nel mischiare le due cose. Senti, Saverio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguirti? Certamente, mi trovate ovviamente su Facebook al nome di Saverio Raimondo, non potete sbagliarvi, con lo stesso nome mi trovate su Instagram, con lo stesso nome mi trovate su Twitter, quindi facilissimo. Non posso scapparvi. Ricordiamo l'appuntamento con Stiamo Calmi di Saverio Raimondo a Feltrinelli Red a Roma il prossimo 18 aprile, chiaramente ci sarai anche tu, fare anche qualche piccolo show. Ma guarda, sarà proprio una presentazione show, nel senso che non ho chiamato interlocutori con il sottoscritto, quindi mi rivolgerò direttamente al pubblico che verrà, gli racconterò un po' il libro e la genesi e le mie ansie, il tutto ovviamente con l'ironia e la comicità che spero mi contraddistinguano. Saverio, un abbraccio e a risentirci presto. A presto, ciao. Ciao. Ciao.